farei una considerazione: se Fini avesse delle truppe dietro a sé, probabilmente non avrebbe aspettato quest'ultimo appuntamento, che si sapeva già come sarebbe poi andato a finire, per fare lo strappo. Sì. Ormai da mesi si va avanti con delle liti più o meno coperte, diciamo, da atteggiamenti diplomatici, però insomma nessuno è nato ieri e pertanto il sospetto è questo: se Fini non se n'è ancora andato è perché ha fatto dei conti e questi conti non sono a suo favore. Senta, in quello che riferiscono appunto i cronisti e le agenzie, Fini rimprovera a Berlusconi che la maggioranza attuale, il PDL, che pure ha fatto degli accordi con la Lega, consenziente lo stesso Fini nelle varie regioni alle passate elezioni, è troppo a traino della Lega. È davvero questa la ragione che spinge Fini a fare dei gruppi autonomi, oppure le mire di Fini sono altre? Ma io penso che questo sia un buon pretesto, che Fini lo abbia cavalcato per una discussione col Cavaliere, che potesse dargli qualche argomento per pretendere qualche cosa. Ma che la Lega sia forte al nord non è una novità delle ultime elezioni regionali, anche perché tutti i giornali hanno scritto sulla base di verifiche che il numero complessivo dei voti raccolti dalla Lega in questa tornata elettorale era addirittura inferiore o comunque non superiore rispetto alle europee e rispetto alle politiche. Quindi la forza della Lega la vede chiunque la voglia vedere. Se Fini se ne è accorto soltanto adesso, secondo me ha sbagliato, non lo accuserei di cecità, ma comunque di aver nascosto la testa sotto la sabbia. D'altronde la Lega è chiaro che si avvantaggia di una situazione di questo tipo. Beh, chiunque lo farebbe con un consenso, diciamo, come dire, ampio, chiaro, no? Cioè. Ma non credo che Berlusconi si rammarichi del fatto che la Lega abbia tanti voti, anche perché a Berlusconi interessa governare, dei partiti non gli importa niente, e se Fini non l'ha capito fino adesso vuol dire che non lo vuol capire. Senta Feltri, ma insomma, lei l'ha scritto tante volte, lei è davvero convinto che alla fine l'unico vero obiettivo di Fini sia fare le scarpe a Berlusconi? No, io non ho esattamente scritto questo. Io mi sono reso conto già da mesi. Che Fini ha un'antipatia veramente profonda nei confronti di Berlusconi, non lo regge più. Siamo arrivati all'insofferenza, un po' quello che accade fra marito e moglie, no? Per tanti anni vanno anche, sembra che vadano d'accordo, poi a un certo punto tu ti accorgi che se la moglie soltanto si soffia il naso la prenderesti a sberle. Ecco, quando si arriva a questo punto vuol dire che siamo alla rottura, e questo accade. Naturalmente l'antipatia di Fini verso Berlusconi è ampiamente ricambiata. Quindi così non si va avanti. Cioè non c'è niente poi alla fine di politico, dice lei, di vero, di sostanziale. Ma in queste... Può essere qualcosa. Sì. Infatti Fini ha cambiato le sue posizioni negli anni e questo è del tutto legittimo. Io peraltro la penso su molti punti come Fini: il testamento biologico, la laicità, il voto agli immigrati, il voto amministrativo per gli immigrati che vivono in Italia, pagano le tasse, hanno la fedina penale in ordine, hanno una fissa dimora, pagano le tasse, non si capisce perché non devono votare per il sindaco. Ecco. Sì, certo. Per amor di Dio, mi rendo conto che Fini non è mai stato fascista, è sempre stato un radicale di destra, almeno negli ultimi 10 anni, per cui che ci siano delle posizioni diverse è del tutto normale e fisiologico. Il problema è che Fini fa prevalere queste sue opinioni, che sono minoritarie, anche nei momenti in cui bisognerebbe star zitti e remare tutti nella stessa direzione. Senta, resta quando la capire... alla vigilia delle elezioni, sì, Fini dice il PDL così com'è non mi piace, non mi sembra che faccia un gioco di squadra, fa qualcosa di ben diverso. Senta direttore, nella sua metafora di prima della moglie e del marito, resta da capire chi è la moglie e chi è il marito. Sì, beh, lì lasciamo decidere a loro, perché se do del gay a qualcuno, l'ordine dei giornalisti poi mi sottopone a procedimento disciplinare.